L'amante si spaventa di queste confidenze fatte ai suoi sguardi, più veritiere di qualsiasi parola e persino di qualsiasi azione, confidenze che le stesse azioni, se già non l'hanno fatto, non potranno non confermare, dal momento che ogni essere persegue il proprio piacere e se non è troppo vizioso, lo cerca in un sesso opposto al suo. E per l'invertito il vizio comincia, non già quando stringe relazioni, cui possono sospingerlo fin troppi moventi, ma quando prova piacere con delle donne. Il giovane che abbiamo tentato di dipingere era così evidentemente una donna che le donne che lo guardavano con desiderio erano destinate, a meno d'un gusto particolare, allo stesso disinganno di quelle che, nelle commedie di Shakespeare, vengono deluse da una fanciulla travestita che si fa passare per un adolescente. L'inganno è il medesimo. L'invertito stesso lo sa. Indovina la delusione di cui, tolto il travestimento, soffrirà la donna e sente di quanta poesia fantasista si affonte questo errore sul sesso. D'altronde, per quanto egli s'ostini a non confessare, nemmeno alla sua esigente amante, sempre che non sia lesbica, sono una donna. Con quali astuzie, con quanta agilità, con che tenacia da pianta rampicante, la donna inconscia e visibile non va in cerca dell'organo maschile. Basta guardare quella capigliatura inanellata sul guanciale bianco per capire che la sera, se il nostro giovanotto si sfila dalle grinfie dei genitori, malgrado loro, malgrado se stesso, non sarà certo per andare a incontrare delle donne. L'amante può punirlo, può chiuderlo in casa. Il giorno dopo, l'uomo-donna troverà il modo ad attaccarsi a un uomo, come il convolvolo getta i suoi uncini ovunque trovi una zappa o un rastrello. Perché mai, ammirando nel suo viso una delicatezza toccante, una grazia, una gentilezza naturale affatto sconosciuta agli uomini, dovrebbe costernarci la scoperta che corre dietro ai boxeur? Sono aspetti diversi di una stessa realtà. Anzi, la cosa che ci ripugna è la più commovente, più di tutte le delicatezze, perché rappresenta un ammirevole sforzo incosciente nella natura. Il sesso che riconosce se stesso al di là degli inganni del sesso appare come il tentativo inconfessato d'evadere verso ciò che un errore iniziale della società gli ha allontanato. Alcuni, quelli certo la cui infanzia è stata più timida, si preoccupano ben poco del tipo materiale di piacere che ricevono, a patto di poterlo riferire a un volto maschile. Mentre altri, dotati forse di sensi più violenti, localizzano in modo imperioso il proprio piacere materiale. Costoro, forse, scandalizzerebbero la gente media con le loro confessioni. Essi vivono forse meno esclusivamente sotto il segno di Saturno, già che per loro le donne non sono completamente escluse come per i primi, ai cui occhi esse neppure esisterebbero se non fosse per la conversazione, la civetteria, gli amori di testa. Ora i secondi vanno in cerca delle donne che amano le donne, che possono procurare loro qualche giovane e accrescere il piacere che provano a stare con lui. Ma c'è ben altro. Possono allo stesso modo prendere con tali donne lo stesso piacere che con un uomo. Ne deriva che per coloro che amano i primi, la gelosia è eccitata solo dal piacere che questi potrebbero prendere con un uomo, il solo che appare loro come un tradimento, in quanto non condividono l'amore delle donne, non l'hanno mai praticato se non come abitudine e per riservarsi la possibilità del matrimonio. E si raffigurano così poco il piacere che esso può dare, da non poter provare sofferenza se l'uomo che essi amano lo sperimenta. Mentre i secondi ispirano spesso gelosia per i loro amori con donne. Infatti, in questi rapporti, essi svolgono per la donna che ama le donne il ruolo di un'altra donna, e la donna, a sua volta, offre loro all'incirca ciò che trovano in un uomo, di modo che l'amico geloso soffre perché sente che l'amato si lega a quella che è per lui quasi un uomo, e nello stesso tempo ha quasi l'impressione che gli sfugga, perché per tali donne è qualcosa che egli ignora. una specie di donna. Non parliamo nemmeno di quei giovani squilibrati che per puerilità, per stuzzicare gli amici e scandalizzare i parenti, mettono una sorta d'accanimento nello scegliere vestiti che sembrino femminili, nel darsi il rosso sulle labbra e il bistro sugli occhi. Lasciamoli da parte, perché sono gli stessi che ritroveremo quando avranno scontato troppo crudelmente la pena per la loro affettazione, a passare il resto della vita nel vano tentativo di riparare con una condotta severa, protestante, il torto che hanno fatto a se stessi, lasciandosi trasportare dallo stesso demone che spinge certe giovani donne del Faubourg Saint-Germain a vivere in modo scandaloso, a infrangere ogni regola, a farsi beffe della famiglia, sino al momento in cui cominciano, con perseveranza e senza successo, a tentare di risalire la china lungo la quale avevano trovato così divertente, o meglio, non avevano potuto impedirsi di scivolare. Rimandiamo infine a un secondo tempo coloro che hanno stipulato un patto con Gomorra. Ne parleremo quando il signor di Charlieu farà la loro conoscenza. Lasciamo da parte tutti coloro di questa o quella varietà che compariranno quando verrà il loro turno e limitiamoci, per concludere questa prima esposizione, a dire una parola su quelli di cui avevamo cominciato a parlare poco fa. I solitari. Considerando il proprio vizio più eccezionale di quanto non sia, essi sono andati a vivere soli dal giorno in cui l'hanno scoperto, dopo averlo portato dentro di sé a lungo, più a lungo degli altri, semplicemente senza conoscerlo. In effetti, nessuno sa sin dall'inizio d'essere invertito, o poeta, o snob, o cattivo. Il collegiale che, imparando dei versi d'amore o guardando delle immagini oscene, si stringeva a un compagno, immaginava di non far altro così che comunicare con lui in uno stesso desiderio della donna. Come potrebbe non credersi uguale a tutti gli altri, dal momento che la sostanza di ciò che prova la riconosce in Madame de Lafayette, Racine, Baudelaire, Walter Scott, e la sua capacità di osservare se stesso è ancora troppo debole perché si renda conto di quel che ci mette di suo, perché capisca che, se il sentimento è identico, diverso l'oggetto, e il suo desiderio non tende a Diana Vernon, ma a Rob Roy? Nelle stanze di molti di loro, in forza ad una prudenza difensiva dell'istinto che precede la più chiara visione dell'intelligenza, lo specchio e le pareti scompaiono sotto ritratti olografici di attrici e compongono versi come: «Io amo Chloe, lei sola al mondo, Chloe la divina dal capo biondo, e per lei sola d'amor mi fondo». Dovremmo per questo pensare che all'inizio della vita vi sia in essi un'inclinazione che in seguito non si ritroverà più, come i riccioli biondi dei bambini, destinati poi a diventare i più bruni? O le fotografie di donne sono solo un primo tratto di ipocrisia e magari un principio d'orrore per gli altri invertiti? Ma è proprio per i solitari che l'ipocrisia è più dolorosa. Forse nemmeno l'esempio di una diversa colonia, gli ebrei, è abbastanza efficace per spiegare quanto poca presa abbia su di loro l'educazione e con quale arte essi riescano a rinnovare non forse qualcosa di semplicemente atroce come il suicidio, in cui ricadono, per quante precauzioni si adottino, i pazzi che, salvati dal fiume dove si sono gettati, si avvelenano, si procurano una rivoltella, eccetera, ma una vita di cui gli uomini dell'altra razza non solo non capiscono, non immaginano, detestano gli indispensabili piaceri, ma di cui proverebbero orrore per la frequenza di pericoli e la continua vergogna che comporta. Forse, per raffigurarseli, bisogna pensare, se non agli animali che non si riesce ad addomesticare, leoncini apparentemente ammansiti ma rimasti leoni, perlomeno ai negri, portati alla disperazione dalla confortevole esistenza dei bianchi, alla quale preferiscono i pericoli della vita selvaggia e le sue incomprensibili gioie. Arrivato il giorno in cui si scoprono incapaci di mentire sia agli altri che a se stessi, i solitari vanno a vivere in campagna, fuggendo i loro simili, che si credono poco numerosi, per orrore della mostruosità o paura della tentazione, e il resto dell'umanità per vergogna. Rimasti al di qua della vera maturità, caduti nella malinconia, ogni tanto, in una domenica senza luna, vanno a passeggiare lungo un sentiero che conduce a un crocevia dove sanno che, senza bisogno di parlarne, è venuto ad aspettarli un amico d'infanzia che abita in un castello vicino. E ricominciano i giochi d'un tempo, sull'erba, nella notte, senza scambiarsi una parola. Durante la settimana si vedono l'uno in casa dell'altro, chiacchierano di cose qualsiasi, senza la minima allusione a quel che è successo, esattamente come se non avessero fatto niente e niente dovessero rifare, se non fosse che nei loro rapporti si insinua un po' di freddezza, di ironia, di irritabilità e rancore, dell'odio a volte. Poi il vicino parte, per un duro viaggio a dorso di cavallo e di mulo, scala dei picchi, dorme nella neve, e lui, che identifica il proprio vizio con una debolezza di temperamento, con la vita timida e casalinga, capisce che il vizio non potrà sopravvivere nell'amico emancipato, a tante migliaia di metri sopra il livello del mare. E in effetti, l'altro si sposa. Ma lui, abbandonato, non guarisce, fatta eccezione per i casi in cui, come si vedrà, l'inversione è guaribile. Al mattino in cucina pretende di ricevere personalmente la panna fresca dalle mani del lattaio e certe sere, quando i desideri lo tormentano, arriva al punto di rimettere sulla sua strada un ubriaco, di sistemare la giubba del cieco. È vero che a volte la vita di alcuni invertiti sembra mutare, il vizio, come si suol dire, scompare dalle loro abitudini, ma niente si perde. Un gioiello nascosto si ritrova. Se la quantità delle urine d'un malato diminuisce, è perché suda di più, ma la secrezione, in un modo o nell'altro, deve avvenire. Un giorno, l'omosessuale in questione perde un giovane cugino, e dal suo dolore inconsolabile si capisce che in questo amore, casto forse, è volto più a conservare la stima che a ottenere il possesso, erano confluiti per un'operazione di giro i suoi desideri. Esattamente come in un bilancio, senza che il totale cambi, certe spese vengono attribuite a un altro esercizio. Come succede a quei malati nei quali una crisi d'orticaria fa scomparire per qualche tempo i disturbi abituali, sembra che, nell'invertito, l'amore puro per un giovane parente abbia momentaneamente rimpiazzato, per metastasi, le abitudini che un giorno o l'altro riprenderanno il posto del male vicariante e guarito. Nel frattempo, il vicino sposato ha fatto ritorno. Di fronte alla bellezza della giovane sposa e alla tenerezza che il marito le testimonia, il solitario, costretto un giorno ad invitarli a pranzo, prova vergogna del passato. Lei, che è già in stato interessante, deve rincasare presto, lasciando il marito. Questi, venuta l'ora di andarsene a sua volta, chiede di essere accompagnato per un tratto dall'amico che, dapprima, non è sfiorato dal minimo sospetto, ma, giunti al crocevia, si sente rovesciare nell'erba, senza una parola, dall'alpinista e prossimo padre. E gli incontri ricominciano, sino al giorno in cui un cugino della giovane moglie viene ad abitare poco lontano. Ed è con lui, adesso, che il marito va sempre a passeggiare. E se l'abbandonato bussa alla sua porta e cerca d'accostarglisi, lo respinge con furore, indignato che non abbia avuto il tatto di intuire il disgusto che ormai gli ispira. Una volta, tuttavia, si presenta uno sconosciuto, mandato dal vicino infedele, ma l'abbandonato, preso da troppi impegni, non può riceverlo e capisce solo più tardi lo scopo di quella visita.